Buongiorno a tutti. Ma quel tipo che ha la giacchetta, quello viene da Molfetta. E quello col cavallo basso, quello viene da Campobasso. E sto gagliardo corcodino, oh, è Gigi D'Agostino. Buonasera Gigi. Non dire più di essere lento, violento. È meglio essere lento, profondo e intenso. Nulla di violento nel cammino. Non è da te, non è da noi. Donna lenta, profonda e intensa. Gigi D'Agostino è lento, violento. È lento, violento. È lento, violento. Violento. È lento, è lento. Ma dolcemente violento. Ascoltare Gigi D'Agostino è come fare del sesso. Se non lo fai, o sei un fesso o sei depresso. Mister Lupin da Nocera. Il cammino di Gigi D'Agostino. Danny e Cappina, siete le mie più care amiche. La prossima volta spero di andare a vedere con voi Gigi. Vi voglio un mondo di bene. Giulie da Torino. Sono Peppe da Palermo. Un avvocato strano, perché amo. Amo la tua musica a colori, che colora la mia mente e aiuta il mio cammino. Che meraviglia. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? Gli amici sono come gli angeli silenziosi che ti aiutano a rimetterti in piedi quando le tue ali si dimenticano come si fa volare. Io sono e sarò sempre il tuo angelo. Da Vale per Greta. Sono in viaggio da Precetto a Torino e penso a Gigi D'Agostino. Gianfranco Lanza, Radio Veronica. Gigi D'Agostino, Tamarro Bizzarro. Gigi, sono Ale 84 Mel. La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Non perché conti di più dei precedenti, ma perché, inclusi in una vita, gli avvenimenti si dispongono in un ordine che non è cronologico, ma dipende da un'architettura interna. Italo Calvino, Palomar. Il cammino di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Una fragranza per l'ambiente. Vedere e ascoltare i malvagi è già l'inizio della malvagità. Confucio. Gigi D'Agostino, Le Nouvelle Martel. È bello, è bello, è bello, è bello, è bello. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. Potete far sentire la vostra voce. 3, 3, 3. 6 4 6 7 6 6 2. Capito come? microfoni. L'uomo ha bisogno di quello che ha in sé di peggiore per raggiungere ciò che di migliore esiste in lui. Paolo Coelho. Se vuoi cassa e melodia, Gigi D'Agostino questo sabato suona in Lombardia a Capriolo, vicino Brescia. La discoteca, la fattoria, dalle ore 22 lascia che sia. La tua musica, mi sento come se la vita avesse un qualcosa in più. Dedico ginnastica mentale a tutti. Walter da Polistena. Gigi, la ginnastica mentale è stupenda. Lo so, Eugenio da Cosenza. La fatica più grande nel rimettersi in piedi è accettare il fatto di essere caduti. DJ Ricky. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Signore e signori, in console c'è Gigi D'Agostino. Oggi Deborah di Moncalieri festeggia il suo 17° compleanno. Vorrei farle gli auguri e dedicarle il sogno. Alex di Pairo da Canavese. We'll be right back. Vorrei dedicare la canzone del sogno al mio amico Joe. Spero che il nostro sogno si avveri presto. Fla. C'è qualcosa di strano nell'aria, forse solo dentro me. Una cosa che col tempo varia e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato ed io ho vissuto sempre con te. Credo in quel che ho provato ed è quello che vedo solo in te. Con te, con te, solo in te. Se qualcuno dicesse che tu sei solo un sogno, io ti prego stai con me, perché di te ho bisogno. Se qualcuno dicesse che tu sei solo un sogno, io ti prego stai con me, perché di te ho bisogno. Dedico solo in te a Lisa, perché stiamo vivendo nella realtà un bellissimo sogno e perché di lei ho bisogno. Laura. Se non credi in questa storia, domandati perché. Ricerca nella memoria quello che fu di te. Magia, la magia dei sogni umani. Non si dovrebbe mai smettere di sognare, non si dovrebbe mai smettere di vivere nella musica. Grazie per i sogni che ci regali. Paola di Vicoforte. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Vorrei dedicare amore elettronico alla mia mamma e dirle che le voglio un gran bene. Sandro da Mottola, Taranto. La tua musica amplifica i miei sensi ed emozioni, tra cui la più importante di tutte, l'amore per la mia ragazza Daira, Simone da Alto Pascio. You. Giovedì 7 dicembre Gigi D'Agostino suona Pavia, discoteca Metropolitan, a Casteggio, in Lombardia, dalle ore 22, lascia che sia. Fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Sali in sella, è suonata la campanella. Cammino di Gigi D'Agostino, una buona occasione per diventare tamarro. Sopporterebbero più facilmente il fatto che i loro mariti tornino a casa tardi se potessero essere sicure che non tornino prima. Sidion Gabrielle Colette. Se volete scrivermi 333 64 67 662. Se bella bella bella monta, lasciati andare, lasciati andare, bella bella monta, bella bella monta, lasciati andare, lasciati andare. Se bella bella bella monta, lasciati andare, lasciati andare. Capito, Gomi? Vuoi cassa e melodia? Gigi D'Agostino questo sabato suona in Lombardia, a Capriolo, vicino a Brescia, discoteca La Fattoria, dalle ore 22, lascia che sia. capito come? Ovvio. Sono Alessio, dalla provincia di Pavia. Vorrei ascoltare Memories e dedicarlo al mio unico amore, Mara. Ti amo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. I never get to sleep waiting for you to go. Think about my dreams before the night was young. So if you leave me now, so if you leave me then, confusion in my brain, I'm gonna try to understand. Confusion in my fuori dal mondo. Every day I pray, every day I say, matter of fact, I really need you every day. People stick on top, some may be pumped, but don't worry girl, I'm really gonna drop when the sun is down, when the moon's gonna shine girl. I really wanna be with you every hour, every minute, every day, every year. Come on girl, please stay with me. I think this girl wanna ride with me, talk with me, freak with me. She wanna be my Cinderella, my señorita. In the hot popping now, she's a witch. I wanna test if it's true that she real quick. A lot about her, that she make it grow me silly. Go down, chill it, just try. Call me, do it, come on. Dedico Stand By Me a Chiara, perché il 19 novembre a Torino è proprio sulle note di questa canzone che ci siamo dati quell'indimenticabile bacio. Ti voglio bene, piccola mia. Ricky da Varese. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colore. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me.

Giovedì 7 dicembre Gigi D'Agostino suona a Pavia, discoteca Metropolitan, a Casteggio, in Lombardia. Dalle ore 22, lascia che sia. Questo programma musical mental, olé, me gusta mucho más. Ho un po' di perplessità. Mando la pubblicità. Sali in sella, è suonata la campanella. Il cielo è qui vicino quando ascolto Gigi D'Agostino. E se a volte è un po' lontano, basta urlare sulle mano. Ma se questo poi non basta, io mi mangio un po' di pasta. Celeste Dance. È come se tutto fosse strano, aria. No, è come se tutto fosse strano. Aria, sulla mano. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il tuo antidepresso. Rimani connesso. È come se tutto fosse strano. Aria, sulla mano. È come se tutto fosse strano. Aria, sulla mano. Per Gigi D'Agostino. Aria, per Gigi D'Agostino. Sulla mano. Per Gigi D'Agostino. Sì. Aria, per Gigi D'Agostino. Sulle mani. Per Gigi D'Agostino, D'Agostino. Aria, per Gigi D'Agostino, sulla mano. Aria, per Gigi D'Agostino. Sì, aria. Sì, aria. Fermamosi un momento. Parte lento, violento. E vi... Se riparte maestro, corteadro, erburattino. Gigi D'Agostino. Volevo dedicare lo sbaglio ad Alex, che ha fatto un incidente, dagli amici di Mozzate, a Locate.

Ci sentiamo domani, grazie.